sbandierato in faccia. Le donne invidiose, superbe ed orgogliose, per il desio d'occupar solo il regno, ardono fra di lor d'ira e di sdegno. A voi pietà mi fate, Rinaldin, non cascate. A voi mi raccomando, de voi mi difendete. Forti, non le credete. Forti, non le badate. La devo abbandonare. Un'altra volta vi vorrà ingannare. Tullia, che pretendete? Essere a voi soggetta. Rinunziar del comando ogni ragione a voi. Che fate, Gio? Prendetela in parola. Amore e fedeltà io vi prometto. A veder queste femmine umiliate venir con un pochino di vergogna come le cagnoline di Bologna. Amo Tullia, e se posso sperar d'averla in preda senza affarotta al mio viril decoro, acquistato il mio cor, avrò un tesoro. Sì, ma badate bene che poi a poco non vi faccia la donna un brutto gioco. E domenico voi cervello, la voglio vanno studiar, principio vanno bel bello, cavezzina di incantar. E quando l'uomo è preso, e quando l'hanno acceso, si gonfiano, si innalzano, e voglio domandar, si gonfiano, si innalzano, e voglio comandar, e vogliono comandar, e Sapere. Io son perduta se voi m'abbandonate. Siete femmine tutte indiavolate. Il regno delle donne distruggendosi va. Causa la vostra troppa vanità. Ma voi mi lascerete al furore degli uomini in balia. Io sono schiavo d'un signorio. Graziosino, pietà. Mi sento muovere. Abbiate compassione. Mi si scalda il polmone. Se volete che io muora, morirò. Ah, se voi morirete, io creperò. Dunque son vostro. Mi salverete voi. Mi salverò. E mi amerete poi. Vi amerò. Ferramonte mi ha consigliato ad essere crudele, ma se una donna poi gli andasse appresso come un poltrone ci cascherebbe anch'esso. Lupi, tigri, leoni, gatti, tardi, pantere, orsi e maschini, mi sento divorare degli intestini. Ecco qui un altro imbroglio. Fermate, è mio quel soglio, io mi voglio salire, ma giovinato fulmine precipita e la terra mi affoga e barbacoppa. I bimbi danno un bagno sulla coppa. Questa è pazza davvero. Buongiorno, cavaliero. Schiavo, padrona mia. Andate col malon che il ciel vi dia. Ha perduto il cervello. Perfido, tu sei quello che vuole rapirmi il trono. Vattene o ti bastono. Io non so nulla. Il capo mi tulla, la testa se va, la testa se va, la la la la la la la la la la la la la. Quando in capo alle donne entran di dominare le frenesie, si vedono da loro mille pazzie. Ah, tu sei mio schiavo. Sì, signora. Accostati. Son qui. Vanne in malora. La femmina. fine tradir non può l'usanza, anche pazza mantiene l'incostanza. Ho suddito altero del mio sovrano impero, mi conosci, briccon, sai tu chi sono? Inginocchiati al trono, giurami fedeltà con obbedienza, abbassa il capo e fammi riverenza. E via che siete pazza! Ma temerario, così parli con me, giurami fedeltà a tuo dispetto, occhio ti caccio questo stilo in petto. Piano, piano, son qui, tutto farò. Giurami fedeltà. La giurerò. Fermate, giuro, giuro, servirvi, obbedirvi, piacervi, vedervi, amarvi, onorarvi, e dirvi, irvi, arvi, arvi, irvi, irvi, arvi, arvi, arvi, con tutta fedeltà, con tutta fedeltà. Fermate, giuro, giuro, servirvi, obbedirvi, e piacervi, vedervi, amarvi, onorarvi, e dirvi, irvi, arvi, arvi, irvi, irvi, arvi, arvi, arvi, con tutta fedeltà, con tutta fedeltà. Viva il sesso virile, la schiatta femminile con tutti i grilli suoi finalmente ad astar soggetta a noi. Giacinto! Che bramate! Voglio che voi mi amate! Questo voglio a voi signora non sta bene in bocca, perché alle donne comandare non tocca. Ma voi siete mio schiavo! Schiavo fui, è vero, della bellezza. Ma vego al fin che la bellezza nostra è assai miglior e val più della vostra. Dunque voi mi lasciate. Se l'amor mio bramate, pregatemi, umiliatevi, abbassate l'orgoglio e inginocchiatevi. E così vil sarò. Più non sperate amor da me, né ch'altri amarvi voglia. Se negate d'usare questa obbedienza. Farlo mi converrà per non star senza. Le donne ad umiliar. Ma troppo vil son io. Se non volete, addio. Fermate. Voglio andar. Fermate. Voglio andar. E accorgia Cintino, tornatemi ad amar. Mi accoro, caro coro, tornatemi ad amar. Sesso femminino si venga a rispecchiar. Ma questo mai non fia, mai non fia. signoria, oh signoria. Fermatevi. Pregatemi. Fermatevi. Pregatemi. Rispetto e nobiltà, rispetto e nobiltà. Caro il mio bambo, per carità, mi sento muovere tutta pietà. Finalmente si è veduto quel mondo alla roversa durare non potea, e che da sé medesime in rovina si mandano le donne superbette che comandano.